Non sono più io che vivo. Leggo dalla Bibbia, Galati 2, versetto 20. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Chi legge questo verso per la prima volta rimane scioccato. Che senso ha che una persona scriva che è stato crocifisso con Cristo e che Cristo vive in lui? Sembra il pensiero del solito fanatico o di una persona con una devozione sopra la media. Purtroppo, anche se molti si dichiarano cristiani, pochi hanno realizzato di cosa si tratta davvero. In questo verso, infatti, è descritto semplicemente ciò che caratterizza una vita cristiana normale. Sì, ho detto normale. Essere cristiani non significa solo credere che Gesù sia esistito o abbia fatto qualcosa per noi. Essere cristiano significa identificarsi con ciò che Gesù ha fatto e ricevere una nuova vita. Quando Cristo è morto sulla croce, è morto al nostro posto, per i nostri peccati. Ciò significa che noi meritavamo la morte. Quando affermiamo di credere, stiamo riconoscendo prima di tutto il fatto che su quella croce meritavamo di esserci noi peccatori. Ma Lui mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ma la cosa più straordinaria è che Dio non ha fatto solo qualcosa per me, ma ha fatto qualcosa in me. Quando ci convertiamo, ci identifichiamo con ciò che Cristo ha fatto e Dio fa di noi delle nuove creature attraverso lo Spirito Santo. Insomma, passiamo attraverso una morte e una rinascita. Da quel momento in poi, Egli ha posto la sua vita in noi. Ecco perché Paolo afferma in questo verso di essere morto con Cristo e di vivere una nuova vita, la vita stessa di Cristo in Lui. Non ci troviamo quindi di fronte ad un concetto che riguarda solo pochi devoti, ma un concetto che costituisce l'essenza stessa del cristianesimo. Dal momento della nostra conversione, la nostra vita non può che rispecchiare l'incontro con Cristo. Chiedo quindi a te, che ti dici cristiano, puoi dire di essere una nuova creatura? Puoi dire che Cristo vive in te?